fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E benvenuti questa sera in questa diretta radiofonica, in questa notte Dinner and Dance targata Convento. Siamo qui nello studio radiofonico e siamo in questo momento in compagnia di 224267. È uno studio molto piccolo perché noi siamo qui e controlliamo la situazione all'esterno, perciò per raccontarsi e per raccontare. E questo raccontarsi in questo momento sarà il raccontarsi di alcune amiche che arrivano da, dillo tu, da Vicenza. Arrivano da Vicenza, fatevi sentire tutte quante, ciao Vicenza! Le abbiamo sentite, sono cariche, arrivano da Vicenza perché devono festeggiare, ma chissà mai cosa festeggeranno. Ce lo dici tu, come ti chiami? Marika. Si chiama Marika. Ok, Marika, cosa stiamo festeggiando questa sera? Festeggiamo Deborah che si sposa il 21 marzo. Deborah che si sposa il 21 marzo, che spettacolo, saremo invitate tutte al matrimonio. Ragazzi, ascoltatori... No, siete troppi. No. Siamo troppi, hai ragione, ma non sappiamo quanti ascoltatori ci stanno ascoltando adesso. Ma sicuramente tantissimi. Perfetto, allora il 21 marzo tutti in piazza di Vicenza alle 11 della mattina per il matrimonio di Deborah. L'abbiamo lanciato, ci saremo tutti quanti, saremo lì ad aspettare con le bandierine. E per Deborah le ale, e per Deborah le ale, e per Deborah le ale, e per Deborah le ale. Ok. Deborah, facci sentire la tua voce. Eccomi qui. Eccola. Allora, io vorrei sapere da Deborah e perché ti sposi? Anche tu. È normale, anche io. È una domanda frequente stasera. Comunque, ufficialmente la risposta è perché sono innamorata. Ascoltami, non è sufficiente. Ma no, a volte può bastare. Può bastare. Tu sei innamorata? Sì, sì. Da quanto tempo? Ma da 3 anni, da quando l'ho visto. Uè, ragazzi... Non la stiamo vedendo negli occhi, ma è convinta, eh? Sì. Chi ci ascolta è convinta. La testimone tra di voi chi è? Eccola. Avvicinati al microfono. Eccomi qua. Come ti chiami? Giulia. Giulia. Secondo te quel giorno Deborah davanti all'altare dirà di sì o dirà di no? Di sì, sicuramente. Dirà di sì, senz'altro. Non c'è bisogno neanche che i giorni precedenti all'evento del matrimonio faccia le prove davanti allo specchio. No. Vuoi tu prendere come legittimo sposo? Sì. Vuoi tu prendere? No, non serve. Cioè gli uscirà spontaneo. Sì. Gli uscirà spontaneo. Allora, tu conosci il suo futuro marito? Sì. Allora ci descrivi un pregio, un difetto del suo futuro marito, perché secondo te lei lo sposa? Beh, Marchetto è un ragazzo buonissimo. Marchetto. Per chi ci ascolta, Deborah si sposa con Marchetto il 21 di marzo, ok. Marchetto. Vabbè, ma ci sarebbe da dire anche su questa cosa, però mi piacerebbe. Ma andiamo avanti. Pregio difetto di Marchetto. È molto altruista. Molto altruista. Sì. Come difetto. È troppo altruista. È molto altruista come pregio, è troppo altruista come difetto. Ma in che modo esprime il suo altruismo? In che modo? Cioè, dici questo in quanto. Tu lo conosci bene? Sì. Sì. È stato anche tuo fidanzato? No. È un'esclusiva sua, ok. Vai. Sempre molto disponibile con tutti. Ho capito. Anche troppo. Anche troppo, ho capito. Marika? Sì. Sei d'accordo con quello che ha detto? Sì, pienamente. Pienamente? Sì. Ho capito. Perciò troppo altruista, disponibile con tutti. E tu cosa dici del tuo futuro marito? No, tu. Sì. Tu devo. No, io sono d'accordo con la mia testimone che è un suo grandissimo pregio perché è una bella cosa, ma allo stesso tempo è un'arma a doppio taglio, quindi è un difetto con certe persone. Perché dopo se ne approfittano, perché dopo ovviamente non c'è mai un limite a saper dire ok, lo sto facendo, però ecco, non dobbiamo approfittarci. Le persone troppo buone poi delle volte succede questo. Coglione, si può dire. Ma sì, ma diciamolo. È così, detto, è troppo buono, troppo coglione. Così. Ah, ecco, si dice così. Ok. Avete sentito prima durante lo spazio Dedicomania che il nostro piccolo slogan è Vicenza ti voglio bene? Sì, avete sentito? Noi Convento siamo particolarmente legati a Vicenza. e perciò è proprio un nostro modo di dire oramai da anni, tanti anni, ci diciamo sempre Vicenza ti voglio bene, perché in realtà Vicenza a noi regala qualcosa in più. Allora, va bene, questo è quello che ci ha detto lei. E tu lo sai cosa ti aspetterà nel matrimonio, ovvero le minestrine e le serate pallose davanti al divano e stirare le camicie. Tu lo sai che ti aspettano tutte queste cose, vero? E sei felice? Sì, sì, sì, sì. Te l'ha la tua mamma te l'ha detto tutto questo? Ti ha avvisato? Sì, sì, ma ci convivo già, quindi lo so già. Ah, convivi già? Prima l'ha provato. Dopo se ne sposa, se lo sposa. Ah, funziona così. Sì, sì. Perciò hai già vissuto le serate pallose sul divano. Ci ho già fatto tutto. Le liti per l'uscire la sera sì, l'uscire la sera no. Sì, okay. Sì, sai già tutto. Sai già tutto, eppure comunque lo fai. Chi di voi è sposata? Una, due, tre. Nomi? Marica. Federica. Roberta. Marica, Federica e Roberta. Allora, un'emozione positiva, Roberta, un'emozione positiva del matrimonio, da regalare a Deborah. Per quanto riguarda me, quando si arriva davanti alla chiesa e si vede il proprio compagno. Quello è emozionante. Per me, sì. Quando lo vedi arrivare, sì. quando arrivi e lui è lì che ti aspetta, col mazzolino in fiori così, col bouquet davanti, esatto. Lì così, imbarazzatissimo. Funziona così? Sì. Funziona così? E allora in quel momento dici mi ama proprio, se sta lì così come un ibete ad aspettare me. Magari l'hai fatto aspettare per 20 minuti, mezz'ora, perché sei arrivata in ritardo, cioè, non l'ha messa in piega, il vestito, e lui era lì ad aspettarti, dice mi ama proprio. È così, ok. Sì. Mi è sfuggito il tuo nome? Federica. Microfono, Federica? Federica. Sei sposata, pertanto sì. un piccolo consiglio da dare a Deborah. Godersi la giornata il più possibile e stare bene, felice, vivere appieno tutto, perché la giornata vola. La giornata vola e dopo hai un pochettino così il rimpianto di non averla vissuta appieno, che magari ti sei persa un po' certi... Sì. Certe emozioni, certi momenti, te li fanno vivere gli altri e tu dici, ma io dov'ero? È così? Sì. È successo anche a te? Sì, è così? Sì, sì, io dov'ero? Sì. No, alla fine della giornata noi abbiamo fatto il punto di tutto ciò che è successo per non lasciare sfuggire niente. Ah, ho capito. Ah, ecco, ho capito. E questo è un altro consiglio che le tue amiche ti danno. Allora, e poi ancora? Piccolo consiglio anche tuo? Cosa dirti? Goditela. Fregatene delle persone che ci sono di fianco, ci sarà sempre quello che troverà il difetto, è il tuo matrimonio, è il tuo giorno, è il giorno più bello della tua vita. E questo ne siamo sicuri? Sì, sì. Ne siamo sicure? Sì. E voi che non vi siete mai, che non vi siete ancora o mai sposate, cosa dite? C'è un po'. Questo riso me lo spieghi? Il tuo nome? Microfono, il tuo nome? Oh ride. No, sta piangendo. Lei è emozionata più di me. Stai piangendo e stai già cominciando a piangere adesso. Il tuo nome? Ma sono la testimone, Giulia. Un applauso a Giulia. Ma radio ascoltatori, ma sapete che Giulia sta piangendo. Il solo pensiero di pensare a quel giorno. Facciamo una foto per favore, poi la condividiamo su convento, hashtag convento, perché altrimenti i nostri ascoltatori non crederanno. Sta piangendo con i lacrimoni proprio, c'è una cosa incredibile. Giulia, ma che bella! È il giorno del matrimonio, abbiamo preparato gli asciugamani. Ma tu pensi? Dai, che mi fai piangere anche la sposa! Dai. Deborah, adesso piangi anche tu! No, dai! No, per il momento no. Per ora no! Ragazze, siccome sono lacrime di commozione, sono lacrime belle, possiamo anche su queste lacrime scherzarci un attimo. Giulia, avvicinati al microfono. Sì. L'emozione che stai provando in questo momento, se puoi descrivicela, perché io vorrei che i nostri radioascoltatori cercassero di immaginarti come sei in questo momento. Cioè, cosa stai provando in questo momento per avere queste lacrimone in una serata di festa dove il matrimonio ci vogliono ancora alcune settimane? Ma come vai? Sei? Beh, io conosco tutti e due gli sposi, quindi tanta gioia per tutti e due sicuramente. E poi vabbè, tanta comunque apprensione, agitazione per l'addio al nubilato, perché sono tante cose da pensare, da organizzare anche. E appunto so quanto il compagno ci sì, pesa comunque anche il pensiero delle altre persone, quindi spero appieno che si vivano il giorno del matrimonio al meglio. Ma che spettacolo, ma che spettacolo, ma facciamogli un applauso. Ma guarda, ci dividono tre amiche, se no io veramente un abbraccione affettuoso te lo darei, perché e poi Deborah, esatto, fai il cuoricino. Guarda, fai il cuoricino. Da quando le ho detto che è la mia testimone, che lei piange quando ci pensa, quindi è un anno. Mamma, che si emoziona ogni volta che ci pensa che ci sposiamo, lei sarà la mia testimone, è tutto vero, e lei ogni volta si emoziona ed è una cosa fantastica. È una cosa, ma stasera non ho mai pianto, però è la prima volta. Sei riuscita a non piangere per un po' di ore, ho capito. È una cosa che mi fa capire che ho fatto la scelta giusta. Sono le 2:25 di questo sabato, oramai di questa domenica mattina che sta iniziando. Siamo arrivati fino alle 2:25 di questa domenica mattina, di questo sabato notte, per vederti piangere. Io devo dirvi una cosa, ragazze, di matrimoni, voi sapete, il convento ne vede una marea, e parliamo con centinaia, con migliaia di gruppi, migliaia di spose, migliaia di feste, veramente, quando si dice migliaia sono vere. Giulia, così mai? Giulia, c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta. Ed è una prima volta, come ha detto Deborah, fantastica. Perché vedere una testimone che sente l'amicizia in questo modo così forte, devo dire veramente, veramente, veramente speciale. Veramente speciale, davvero. Giulia, però, adesso vogliamo sapere qual è. Vediamo un attimo. Giulia, sei preparata? Sei preparata? A cinque domande a raffica. Cinque domande, Deborah. Deborah, vediamo se è giusto che tu ti sposi con, come si chiama lui? Marco. Con Marco, certo, Marchino. No, Marchetto, con Marchetto, certo. Il tuo Marchetto. Allora, qual è il piatto preferito di Marchetto? La carne. In troppo generale. Generico. No, troppo generico. Andiamo con risposte precise. La costata è il piatto preferito. E l'attore preferito di Marchetto? Boh. C'è un genere. Ci sono vari generi. L'hobby preferito di Marchetto? La pesca. Ci va anche domani mattina. La pesca. Cioè, Marchetto è capace di stare a pesca. Tu stai a casa ad aspettare Marchetto che esce alle 4:30 la mattina per andare a pescare. Ma io dormo nel frattempo, no. Poi mi alzo e lo raggiungo, vado a fare l'aperitivo. Ah, ecco, ti stavo chiedendo, infatti, l'hai mai accompagnato a fare pesca? Accompagnato no, lo raggiungo poi. Quando tipo 10:30, 11:00 io arrivo là, intanto faccio l'aperitivo, lui finisce di pescare, fa l'aperitivo con me. Adesso non mi odieranno tutti i pescatori che ci ascoltano e che ascolteranno anche il podcast, e anche Marchetto mi odierà, ma non è pallosa la pesca? Ah boh, cavoli loro. Mica lo faccio io. Una risposta da parte di tutti: è pallosa la pesca, sì o no? Lei ha il marito che pesca con anche il futuro marito, quindi. Cioè, anche tu. No, ma sai cos'è la cosa bella? Che sì? Loro pescano e noi facciamo aperitivo. E voi fate aperitivo. Allora, la pesca è bella perché le donne dei pescatori si fanno l'aperitivo. Ok. E ovviamente bisogna sempre trovare la chiave positiva delle cose. Bella, pescatore. Benissimo. Ancora un aspetto di Marchetto che vediamo se lo conosce appieno. Allora, è mai stato innamorato prima di essere innamorato con te? Certo che sì. E tu sei stata ancora innamorata prima di essere innamorato di lui? Chiaramente sì. Questo devo dire che non so se siete d'accordo, ragazze, ma è molto positivo. Perché quando, Giulia, sei d'accordo? Sì, perché si ha un termine di raffronto. Quando arrivano certe coppie che è l'amore unico della vita da sempre, eccetera, eccetera, poi magari. Ecco, questo gesto che ha fatto Giulia, attaccato l'ombrello, il primo amore. Non si scorda mai, ma non è l'unico. Ok, nel frattempo stiamo ridendo perché il nostro Stefanuccio da fuori dallo studio sta scrivendo bella la Debbie col cuoricino. E facciamo anche noi cuoricino a lui, Stefanuccio. Anche noi cuoricino a lui. Guarda che cattivo. È cattivo. Io direi che abbiamo conosciuto a fondo. C'è qualcuna che ha qualcosa da dire, che lo dica adesso mai più? C'è qualche altra amica che non ha parlato? Che non ha parlato nessuno? Nessuno? Perciò siete sicure che sia un bel matrimonio? Sì, sì, assolutamente sì. Sì, Roberta, sì, assolutamente sì. Sarà che voglio bene a tutti e due, ma... Devo dire, che, devo dire che sono stati 15 minuti di scambio di amore. Però io vorrei sapere da chi è sposato ancora una cosa, Roberta. Un piccolo consiglio sul... Prima abbiamo dato un piccolo consiglio a Deborah sul giorno del matrimonio. Adesso un piccolo consiglio a Spot sulla vita matrimoniale. Roberta. Ci vuole tanta pazienza, bisogna sopportarci, capirsi. Le litigate ci stanno, litigate, discussioni, però bisogna sempre capirsi. Quello sì, bisogna trovare il modo di capirsi e allora si va avanti, altrimenti non si va da nessuna parte. Altrimenti non si va da nessuna parte. Se ognuno sta fermo sulle proprie posizioni. Se si litiga e non si cerca di capire, certo, qual è il motivo, meglio lasciar stare. Meglio lasciar stare. Strada. E questo, è l'esperienza di Roberta. Poi, altra sposina? Vai. Trovare sempre. Scusami? Federica. Da quanto tempo ti sei sposata? Da quanto tempo? 3 anni. Beh, insomma, sei credibile, sei credibile. No, perché se mi dicevi 3 settimane, insomma, no, lo eri un po' ancora. Di meno. Ok, ok, allora, vai. Trovare vai. Un punto di incontro sempre. Cioè, no, essere convinti uno di aver ragione e l'altro di aver ragione, ma comunque mi ricollego a Roberta a trovare un punto di incontro. Punto di incontro vuol dire sapere che... Pensare che anche la controparte, anche il padre può avere ragione. Esattamente. Anche lui può avere può ragione. Avere ragione. Non è detto, lui, ma non può avere. Può avere ragione. E lui deve pensare che la controparte può avere ragione. Certo, perciò comunque l'incontrarsi. Ultimo, vai. E cos'altro dire? Beh, trovare sempre dei compromessi. Se proprio quella cosa lui non gave giù, lascia che se la fassa da solo. Lascia che se la fassa da solo. Traduzione. E cari amici, lascia che si arrangia. Lascia con quante esse? 5, 6, 7. Bellissimo. Devo dire che è stata una conversazione piacevole. Potremmo andare avanti ancora, ma dobbiamo fermarci. Nel frattempo abbiamo raggiunto le ore 2:32. Il nostro monitor ci segnala che è il momento di doversi salutare e noi non possiamo far altro che dire a Deborah e a tutte le amiche un in bocca al lupo straordinario. Grazie mille. Se il 21 marzo dovessi decidere di dire di no, non preoccuparti, vieni al convento che la festa la facciamo noi, ok? grazie.